Peace and love. How y'all feel? Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Well, my name is Erica Badu, also known as Badula Oblingata. Also known as Cerebellum, also known as She Ill. Also known as Manuela Maria Mexico. Also known as Fat Belly Bella. Yeah. And welcome to the Tiny Desk by way of Apple Tree Cafe. I'll be your host this evening. On bass, we got Brother B. We got Kenneth on sax. We got Keon on trumpet. Dwayne Kerr on flute. Back behind me on percussion, that's Frank Mocha. On drums this evening, that's the heartbeat of the situation. That's my son, Seven. I'm just kidding, that's not Seven. His name is Delta 9, they call him Goodfoot. And on keys, upright piano, this is my MD. We've been together for years and years, all of us. His name is R.C. Williams. You know what I want? I want a rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. A rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. I want a rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. Rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. I came to hear the band today. I ain't thinking about you. I came to hear my drama play. Boom, clack, boom, clack. I'm in love with you. Cause a dot is you. Do to me with you. Baby, baby, boom, clack, boom, clack. I want a rim shot. Ayy, diggy, diggy, the rim shot. Ayy, come on, a rim shot. Ayy. Diggy, diggy, the rim shot, ayy, come on. I want a rim shot, ayy, diggy, diggy, the rim shot, ayy, come on. Rim shot, ayy, diggy, diggy, the rim shot, ayy, come on. Boom, clack, boom, clack, boom, boom, clack, boom, clack, boom, clack, boom. Thank you. My eyes are they can't control it. But I don't love you anymore. Yes, I do, I think. Yeah. friendship was. Can't be what I need you to. E ciao a tutti, è il 26 aprile, sono le 9 e siamo di nuovo su Radio Lotto tutto l'anno. L'ultima volta che ci siamo sentite eravamo in diretta con la collettiva Ombre Rosse e oggi parliamo con Ambrosia e Chronic Queers di attivismo e pratiche di resistenza all'abilismo, di malattie croniche e lotte contro una società performativa e oppressiva, di salute e di vite LGBTQ. Siamo con Mara ed Elia e Ambrosia, un po' di Ambrosia, se volete salutarci ci dite ciao, così. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, un paio di contatti utili prima di entrare nel pieno della puntata. Il contatto, il blog di Non Una Di Meno Milano, nonunadimenomilanoblog.wordpress.com e il blog di Ambrosia, ambrosia.noblogs.org, e lascerò poi a Elia e Mara di dare i contatti di Chronic Queers. Iniziamo con una canzone per poi entrare nella presentazione del progetto. Ed eccoci tornate in diretta con Rebel Girl delle Bikini Kill e c'è un motivo particolare per cui abbiamo iniziato con questa canzone. Abbiamo scelto di iniziare con questa canzone che ci è stata suggerita da Mara e la ringraziamo per i suggerimenti musicali, perché la cantante delle Bikini Kill, come racconta nel documentario The Punk Singer, racconta la sua storia con una malattia cronica chiamata Lyme disease, che le è stata diagnosticata negli ultimi anni. Abbiamo pensato, grazie a Mara che ci ha consigliato questa canzone, di cominciare proprio così. E ora direi che possiamo sentire proprio da Mara e Lia la presentazione del loro progetto Chronic Queers. Sì, grazie, grazie. Io sono Mara e Elia, vuoi dire ciao? Così Ciao, se. ciao tutto. Mille ciao di Elia. Sì, io sono Mara, grazie, grazie, grazie per questo invito. Siamo entrambi molto felici di essere qui. Io sono particolarmente contenta perché appunto insomma il progetto è nato da me, dalla mia tesi di dottorato, dalla mia ricerca di dottorato e poi però si è sviluppato in qualcosa di più che una tesi accademica di ricerca e ho avuto l'opportunità di coinvolgere Lia, che però di solito fa la parte silenziosa del progetto, che sono le illustrazioni, e quindi sono contenta perché oggi invece, sentiamo anche la sua voce, quindi grazie di questo doppio invito. Grazie a voi. Vi avete, appunto, tu hai parlato di progetto, ma hai già anticipato che è un progetto di ricerca, è un podcast, è diventato una guida, è più di un progetto. Magari avete voglia di iniziare a dirci qualcosa su uno di questi aspetti di questo progetto che appunto nasce come progetto di ricerca, ma esplode fondamentalmente. Sì, allora il progetto nasce con questo nome come ricerca di dottorato che ho realizzato all'Università di Coimbra, al Centro di Studi Sociali, dove insomma ho concluso poi il dottorato di 4 anni. E durante questa ricerca ho incontrato persone che si identificano come LGBTQ+, in Italia e in Portogallo. E ho raccolto le loro storie, quindi non è una ricerca statistica né comparativa, è stata una ricerca in cui sono andata proprio alla ricerca delle storie, quindi ho fatto delle interviste narrative in cui mi interessava soprattutto capire come le persone che si identificano come LGBTQ e vivono con una malattia cronica attraversavano questo doppio, triplo, quadruplo filo, no, di intersezioni. E quindi le interviste avevano a che fare con il tema del tempo, della cura, delle reti di cura, del rapporto con il sistema medico sanitario, il rapporto con l'intimità, con la sessualità e poi anche con quella parte grossa, che è la precarietà lavorativa, economica, in cui insomma anche dal punto di vista generazionale i giovani adulti di oggi si devono confrontare, soprattutto in Italia e in Portogallo. E, sul finire di questa ricerca ho partecipato a un bando di codici ricerche che sono dei vostri vicini di Milano, che saluto. Che salutiamo. Che salutiamo e grazie a questo bando, a questo concorso che si chiama Controtempo, ho appunto avuto la possibilità di accedere a un percorso di accompagnamento per fare delle parti di divulgazione della ricerca. E l'intento era proprio quello di portare la ricerca dallo spazio accademico allo spazio, diciamo, fuori dall'accademia. E per me era molto interessante questa parte perché significava un po' riportare, no, alle persone che avevano nutrito la ricerca quello che era stato prodotto durante la ricerca. E quindi da qui sono nate due parti del progetto. Uno è un progetto di una guida che è stata realizzata, appunto, una guida illustrata in PDF in Creative Commons, quindi che potete anche andare a scaricare e divulgare, usare liberamente, ed è sul sito di chronicqueers.it. Questa guida è rivolta a medici e persone che fanno parte del personale sanitario, che hanno, ed è una guida, diciamo, che serve a orientare, a dare degli orientamenti di base su, le specificità delle persone LGBTQ+ quando si parla di salute, perché la tendenza è pensare che gli unici problemi di salute che le persone LGBTQ+ hanno sono i problemi legati alle transizioni per le persone trans o non binarie e i problemi di HIV per le persone gay. Fine della storia. Questo è anche a livello di letteratura accademica, per moltissimo tempo è stato così. Invece, come dire, come siamo persone LGBTQ+ in tutti gli ambienti e siamo attraversati da questa intersezione in tutto quello che si fa, in tutto quello che si è, anche come pazienti ovviamente intervengono delle dinamiche particolari. Quindi è importante che il personale medico-sanitario ne sia cosciente, consapevole. E sono state proprio le storie raccolte dalle persone che mi hanno fatto capire, insomma, che c'era proprio un vuoto molto grande rispetto anche alla formazione che il personale medico-sanitario riceve su questi temi, e quindi il nostro piccolo contributo è stato questo, che in realtà poi è stato un piccolo grande contributo perché ha smosso tante cose e abbiamo realizzato poi un profilo social che è alimentato appunto dai contenuti della ricerca, sempre con le illustrazioni di Elia. E poi sto preparando dei podcast che avrebbero dovuto essere già fuori. Mi sarebbe piaciuto annunciarvi la data d'uscita oggi, ma ancora non è così, ma arriveranno sicuramente prestissimo. Quindi anche qui vi invito a seguire il profilo Instagram, il profilo Facebook di Crony Queers e di venirci a trovare sul sito. Ecco, questo è quanto. Questo è come è esplosa una ricerca accademica in tanti pezzettini. Allora, se siete d'accordo, visto che penso che già tutte, tutti e tutto stiano andando a cercare il sito, i profili social, così diamo un attimo di pausa con una canzone, così intanto loro si segnano il sito, iniziano a cercare le cose che hai suggerito e poi torniamo e ascoltiamo anche altre voci. Tell me how you learn to doubt my voice. Ed eccoci tornato in diretta con Falling Man dei Blonde Redhead. Eccoci qua con Chronic Queers. Beh, grazie Mara per averci raccontato un pezzo di Chronic Queers e sappiamo che una parte importante di questo progetto riguarda anche proprio le riflessioni che avete fatto sulle rappresentazioni e poi le illustrazioni di Elia. E volevamo chiedere proprio a lui se ci va di raccontarci un po' da cosa è partito questo coinvolgimento e insomma come avete orientato poi le vostre scelte rispetto alle rappresentazioni che fanno parte del progetto. Sì, super volentieri. E, beh, il progetto è nato, come diceva Mara, ragionando inizialmente con la guida per l'ambito medico-sanitario. E solitamente se pensiamo che una guida per l'ambito medico-sanitario deve essere rivolta a professionisti del settore, non pensiamo e non immaginiamo che debba essere inclusiva e accessibile. E per noi era un punto fondamentale, quindi abbiamo lavorato su tutta una serie di aspetti che fossero, ad esempio, il colore, quindi che avesse una lettura del colore accessibile, che ci fossero cioè che la grandezza del font fosse leggibile più possibile. Abbiamo ragionato su come orientare la pagina per permettere una fruibilità per tutte le tipologie di visione e di ipovisione. E quindi abbiamo inserito appunto l'accessibilità anche all'interno di un prodotto che solitamente l'accessibilità non la contempla. E da qui poi abbiamo deciso cioè diciamo che tutto il lavoro che è stato fatto per quanto riguarda l'aspetto più comunicativo di Chronic Queers è legato e diciamo che parte da noi, cioè dalla necessità di vederci rappresentati e rappresentate e dalla necessità di trovare non lo so, un corrispettivo nelle immagini che fruiamo. E quindi da lì, insomma, da un desiderio, una necessità identitaria, che ho prodotto questo tipo di immagini. Cioè sono, come dire, sono in un certo senso il poster che vorremmo appenderci in camera, e sono l'eroina in cui vogliamo rispecchiarci. Sono sì, hanno una funzione di empowerment e questa insomma è l'idea che è il filo rosso che sta continuando a portare avanti tutte le illustrazioni che stiamo continuando a fare per Chronic Queers. Oltre che l'altro aspetto fondamentale è che sono non so come dire, possono essere fruibili e utilizzabili e riproducibili gratuitamente, quindi sono nostre della comunità e questo era molto importante per noi, così come la guida, che anche le immagini fossero sotto Creative Commons. E ringraziamo anche Elia per l'illustrazione della puntata di questa sera che forse molto di voi hanno visto. Elia, se ci vuoi dire un pochino anche, se la vuoi descrivere per chi magari non l'ha vista, perché a me piace molto e siccome magari è girata un po' questi giorni. Sì, l'idea era quella, siccome appunto abbiamo pensato di fare una puntata che parlasse di welfare, parlasse di sistema medico-sanitario, parlasse di malattia cronica, cioè per me, non per me, per persone molto più autorevoli di me, diciamo che il corpo delle persone AFAB, cioè assegnate di genere femminile alla nascita, è il corpo più, come dire, più, cioè che viene in generale più attaccato scusate, mi sfugge la parola in questo Più momento. bistrattato. Più bistrattato, ecco, all'interno appunto dell'ambito medico-sanitario, e quindi rappresentare questa soggetta a, come dire, a carne viva, sembrava appunto il modo migliore per raccontare quanto spesso ci sentiamo in balia di questo sistema e in un certo senso prive delle difese necessarie per far fronte a qualcosa che comunque ha un sistema verso il quale comunque c'è uno sbilanciamento fortissimo di potere. Allo stesso tempo c'è questa pioggia di pillole sotto cui si trova, che rincara la dose, cioè è come dire, siamo sotto la pioggia di meteoriti, come facciamo? E però la cosa che mi piace sempre inserire nelle illustrazioni sono questi, soprattutto queste soggette potenti, e in questo caso è estremamente serafica e zen. E è lì in mezzo a questa tempesta, ma è pronta a sferrare l'attacco di risposta, no? E quindi mi immagino, come dire, mi immagino sempre come se queste illustrazioni fossero solo una foto e un pezzo, un quadro di un processo molto più lungo, no? Di un episodio molto più lungo in cui, ok, magari stiamo vedendo la parte iniziale, quindi l'attacco violento, al quale però siamo in grado insieme di dare una risposta fortissima e favolosa. Bellissima, grazie. Sì, grazie davvero intanto per l'immagine, ma anche per il racconto a parole delle immagini. Poi raccontare le immagini in radio è sempre un'esperienza faticosissima, quindi triplamente grazie. Però su questo, insomma, su diciamo la tua parte, ma ovviamente anche Mara, sentiti chiamata in causa, mi chiedevo, e visto che anche prima Mara diceva, no, poi sono stati aperti dei profili social, per cui è diventata una ricerca molto diffusa, che tipo di reazioni avete incontrato, se ci sono state più reazioni positive o negative, se insomma c'è qualcosa che vi ha sorpreso. Beh, la cosa interessante è che, almeno solitamente tra me e Mara, io sono la parte pessimista del duo, e, come dire, su questa tematica io avevo paura di trovare, come dire, di trovarci di fronte, dei troll o comunque dei commenti faticosi per noi, difficili da gestire o degli attacchi d'odio, insomma, non lo so, comunque transfobia, abilismo. E invece siamo stati piacevolmente sorpresi e sorprese perché attorno a Chronic Queer si è andata creando, diciamo, una sorta di comunità, e pian piano abbiamo fatto conoscenza con moltissime attiviste e moltissimi attivisti che operano nel campo, cioè, e lottano nel campo soprattutto della malattia cronica o della disabilità. Ed è potentissimo poter relazionarsi e parlare con persone che hanno o un'esperienza simile alla tua, ma non solo appunto dal punto di vista di ciò che attraversa il tuo corpo, ma dal punto di vista di tutto quello che ci troviamo ad attraversare come malati e malate croniche, che è parte appunto di un sistema assolutamente coercitivo caratterizzato da una burocrazia che ti affossa e da tutta una serie di altre situazioni che poi nel momento in cui si intersecano a altre identità, cioè diventa veramente pesante da sostenere. Cioè, non lo so, io penso se posso aggiungere, penso alla mia situazione nell'attraversare lo spazio degli ospedali, per esempio, come persona trans e come persona con malattia cronica e come persona con disabilità, e tutte le volte il tipo di accoglienza che ricevo è non so mai, cioè non so mai dire qual è la peggiore, se mi cioè, tra le varie, perché comunque è stigmatizzante e è estremamente violento. Gli episodi cioè, che ci troviamo ad affrontare sono estremamente violenti, ed è solo attraverso il confronto e la condivisione di sapere condiviso che stiamo riuscendo a farci forza e riusciamo ad affrontare questo tipo di situazioni e ad essere soprattutto preparate a questo tipo di situazioni. Sì, se posso aggiungere, la cosa molto sorprendente per me è stata anche che mentre facevo la ricerca è stato difficile riuscire a trovare risonanza per questo tipo di tema, perché l'associazione LGBT, l'attivismo LGBT non è particolarmente attivo, attento, non sempre su queste sulla tematica della malattia o della disabilità. E dall'altro lato l'associazionismo e l'attivismo sulle malattie croniche non è particolarmente attento né sensibilizzato alla parte in generale della sessualità, ma soprattutto delle tematiche LGBT, e quindi non è stato facile trovare, come dire, arrivare a persone che volessero partecipare alla ricerca. Ma dopo, nella seconda fase del progetto, è emersa questa comunità che io vedo sempre come una comunità che si sta formando, fatta di atomi, cioè di persone che fanno delle lotte molto simili, ma che faticano a trovare degli spazi in cui condividere queste lotte. Quindi mi piace pensare che grazie a Chronic Queers piano piano si stanno catalizzando, no? queste lotte atomizzate piano piano insieme, e quindi questa è stata una bella sorpresa. Sì, anche magari che appunto questa è una riflessione così che Ambrosia un po' porta avanti da tempo, anche su riflettere su come gli spazi online, anche quelli magari più mainstream, diciamo così, come i social network, poi offrano appunto anche delle inedite sorprese di costruzione di comunità e di resistenza, e come, no, come anche diceva Elia, magari per aiutarci ad arrivare tutte e tutti e tutto più preparate poi nelle occasioni. Cioè, è chiaro che, come dire, Instagram non può venire con me dal dottore, però è vero che può darmi delle armi di difesa o anche solo appunto di consapevolezza, che non sono poca cosa, credo. Sì. In questo senso era anche molto bella l'immagine che dava Elia dell'illustrazione che diventa poster in camera, per cui di un'illustrazione magari incontrata su Instagram che si materializza poi negli spazi del nostro quotidiano, insomma, abbastanza potente come immagine. Se siete d'accordo, mandiamo un pezzo musicale e ritorniamo fra qualche minuto. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Standing on the stage of fear and self-doubt, it's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Thank you. E ciao a tutti, ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato My Body is a Cage degli Arcade Fire. Eccoci. Grazie mille per le vostre riflessioni e proprio parlando di spazi digitali, beh, uno spazio digitale, uno strumento digitale è quello proprio che ci sta concedendo la possibilità di essere qui, di creare questa puntata con voi e di incontrarci. E infatti proprio la radio di Non Una Di Meno, L'Otto Tutto l'Anno, è nata all'inizio della pandemia, prima dell'8 marzo del 2020, in un momento in cui non si poteva più incontrarsi in piazza e nelle strade come si era fatto negli anni precedenti. E la creazione della radio ha accompagnato anche nella collettiva di Ambrosio proprio molte riflessioni sull'accessibilità degli spazi politici e quindi anche un ripensamento di cosa significa lo spazio politico, cercando di discostarsi un po' da quella visione normativa che vede come unico spazio politico quello della piazza, della strada, che però oltre alla pandemia non è mai stato accessibile a tutto, a tutte e tutti. E quindi volevamo pensare con voi un po' a questa questione, se vi va, dell'accessibilità e di come rendere accessibile la militanza. Più accessibile, quantomeno. Sì, questa è una questione fondamentale. Allora, innanzitutto forse c'è da chiarire il termine accessibilità, nel senso che nel senso comune tendiamo a legare la questione dell'accessibilità solo ad alcuni tipi di disabilità e tendiamo a non pensare che anche le persone con malattie croniche o con disabilità invisibili hanno come dire, delle questioni di accessibilità che devono essere in qualche modo indirizzate e sulle quali bisogna riflettere. E questo è un punto super importante perché se spostiamo l'accento su questo tipo, su questa accezione dell'accessibilità, ci rendiamo subito conto che sono moltissime le persone che usufruiscono delle forme di che usufruirebbero delle forme di accessibilità, no? Quando se le mettessimo in campo tutte. E in effetti, boh, io oggi sono particolarmente contenta di parlare in radio perché la radio, pur essendo un mezzo molto antico, in realtà è un mezzo che perlomeno nella sua evoluzione moderna, contemporanea, è tuttora un mezzo estremamente accessibile ed è anche per questo che nel progetto, nell'evoluzione del progetto Chronic Quiz, ho pensato ai podcast, perché in realtà, la radio in questo momento ci permette di arrivare a moltissime persone che anche non ascoltando contemporaneamente questa trasmissione potranno ritrovare queste parole, questa chiacchierata. Nella versione dei podcast di Chronic Quiz sarà allegata anche una versione scritta, per cui per le persone non udenti ci sarà la versione leggibile. E via dicendo. Quindi ci sono delle opportunità create dalla pandemia e so che è brutto dire che la pandemia crea delle opportunità perché sembra un po' di entrare in quella logica, no, della resilienza, che dobbiamo trovare sempre il lato positivo di tutto. Non è questo, però nella pandemia si sono svelate delle crepe che in qualche modo potrebbero accelerare dei passaggi di accessibilità che avremmo dovuto fare già da molto tempo e che non. Che per tanti motivi, almeno nello spazio delle militanze, si fatica a fare, perché c'è un po' questa idea che la militanza vera è quella fatta con i corpi e quando i corpi sono tutti insieme. E non è che non sia così, ma la militanza si fa anche quando i corpi sono insieme in un'altra forma, in un altro modo. E quindi ragionare su come rendere più accessibile la militanza anche senza che i corpi debbano trovarsi in piazza, perché obiettivamente pre-pandemia c'erano già moltissimi corpi che non riuscivano ad arrivarci alla piazza, che non ci potevano stare in piazza. Quindi, come dire, non è che la pandemia ha creato dei nuovi problemi all'idea di militanza accessibile, quei problemi c'erano già, semplicemente li ha resi come una lente, li ha ingranditi, li ha ingigantiti, ce li ha sbattuti in faccia e soprattutto li ha sbattuti in faccia anche a chi non aveva mai pensato a queste questioni. Ed è per questo che credo che secondo me questa è un'opportunità, nel senso per ripensare la militanza, perché effettivamente ce ne stiamo rendendo conto tutte e tutti, tutto, nel senso non è più solo una questione di quei pochi e poche che si sbattono perché ci sia una forma di accessibilità e che parlano con i compagni e le compagne, i compagni del movimento e cercano di, no, di mobilitare certe pratiche, via dicendo. Secondo me siamo in un momento in cui possiamo davvero fare un passaggio collettivo su questa questione. Però forse è una mia, non so, sono ottimista, sono troppo ottimista. Che poi è in sintonia con un po' con quello che si è detto da appunto anche quando è iniziata la radio, insomma, dal primo lockdown, non vogliamo tornare alla normalità, perché insomma, la Esatto. normalità di chi? Per cui è un po' in sintonia anche Sì. con quest'idea. Sì, perché la normalità è sempre stato il problema, perché il problema è la normalità, quindi e anche l'idea stessa di disabilità e di malattia si riproduce grazie a un'idea di normalità che in qualche modo noi cerchiamo di smontare, no? E sicuramente cioè quello che ci stiamo dicendo rispetto intanto all'intreccio tra gli spazi digitali, lo spazio urbano, è uno dei modi per ripensare l'articolazione dello spazio politico, per non riprodurre la norma, appunto quella normalità che poi crea gerarchie, insomma, che conosciamo tutte, tutti e tutto. Su questo mi veniva, cioè anche a partire da questo, nel senso, le persone che tu hai intervistato, se abbiamo capito bene, non sono per forza militanti, insomma, persone ma le cose che discutiamo oggi arrivano anche dal sapere incarnato delle persone che tu hai incontrato e quindi in qualche modo anche grazie al loro sapere che hanno condiviso possiamo parlare, per esempio, della riarticolazione della militanza. Allora, la mia domanda è un po'. Com'è stato intrecciare queste narrazioni? Che insieme al percorso divulgativo, ma insieme anche all'attivismo, alla militanza che, insomma, di cui stiamo discutendo oggi. Volevamo chiederti qualcosa rispetto appunto anche agli stimoli che sono arrivati da quei saperi che hai avuto modo di, insomma, di incontrare. Grazie, no, è una domanda molto, molto profonda, nel senso che va nel profondo, perché in qualche modo, così come la ricerca va, cerca di spacchettare, no, una serie di nodi che si creano a partire da intersezioni identitarie diverse, allo stesso modo io come ricercatrice non sono mai solo una ricercatrice sul campo, non sono mai stata solo una ricercatrice, c'è cioè sempre una. Quando, io penso che in qualsiasi, quando si sceglie di fare una ricerca, e soprattutto una ricerca che coinvolga storie silenziose, silenziate e invisibili, cioè c'è sempre anche un aspetto politico del lavoro accademico. E quindi, come dire, mentre stavo facendo ricerca, stavo anche lavorando su un aspetto politico o comunque sperando, insomma, di portare anche una questione politica fuori da questa ricerca. E poi allo stesso tempo ero anche dentro io come persona che con malattia cronica che si identifica come LGBTQ e che quindi in qualche modo si vedeva, si rivedeva, ma anche si vedeva doveva ritrovarsi anche nelle differenze e nelle diversità che incontrava. Quindi, come dire, ci sono tante forme di intersezione dentro questi incontri che ci sono stati. E secondo me è bello che tante delle persone intervistate non si identifichino propriamente come delle attiviste o degli attivisti, perché in realtà poi quando si va a vedere nelle pratiche del quotidiano, nelle micropolitiche, no, del giorno dopo giorno, di quello che le persone fanno per sopravvivere, per identificarsi, per affermarsi all'interno di un contesto che spesso non è particolarmente incoraggiante. Ci sono davvero tanti tanti aspetti che sono attivismo puro, anche se non sono chiamati così, ma hanno un senso politico fortissimo. E quindi a me questo emoziona, perché mi fa vedere che, cioè, mi mostra che comunque c'è una necessità di rendere politico in qualche modo il vissuto intersezionale, no? Di chi vive a metà tra la salute, la disabilità, la malattia, di chi si rende conto che vive tante forme di anormalità, tra molte virgolette, di deviazione dalla norma, e cerca di dare un senso a tutto questo. E quindi è stato estremamente ricco, no? Raccogliere tutti questi vissuti che vanno dai più radicali ai più quelli che magari con il termine accademico o così chiameremmo più omonormativi o più normativizzati, insomma c'è un po' uno spettro, no, di vissuti, però è proprio questa ricchezza che a me ha emozionato moltissimo e che mi fa credere proprio che ci sia davvero un'importanza politica nel parlare di malattia cronica all'interno, proprio dentro l'intersezione con il genere, con la sessualità, con l'identità di genere e poi molte altre intersezioni. Grazie mille, se hai voglia, Mara, e lo dico anche alle altre e agli altri, facciamo una breve pausa, mettiamo un po' di musica così recuperiamo un pochino il respiro. Grazie. Making yourself up as you go along. E niente, torniamo in diretta con True Trans or Rebel di Against Me. Ed eccoci ancora qua con Chronic Wears. Sì, stavamo appunto parlando con Mara ed Elia, anche delle persone che Mara ha incontrato nella ricerca. Abbiamo visto, insomma, nel corso di questa puntata quanto questa ricerca ha incontrato persone diverse attraverso mezzi diversi, da quelli più classici, diciamo così, delle interviste, a quelli della presa di parola invece sui social network di persone sconosciute, mi immagino, però nel corso di questa puntata abbiamo anche parlato di disabilità e malattia cronica, spesso come sinonimi, no? Mettendo un po' in un grande insieme di nell'intersezione tra la malattia cronica e l'essere LGBT e tantissime altre intersezioni, però poi abbiamo usato queste parole un po' come sinonimi e in effetti, come dire, anche quello che emergeva poi dalla discussione sulla rappresentazione, molto spesso la disabilità ha una rappresentazione molto codificata e molto stereotipata, così spesso come le persone LGBT, da cui però non emerge la grande sfaccettatura. Anche Mara prima parlava, no? Di come spesso alcune disabilità, alcune malattie siano invisibili, diciamo così, secondo i criteri della visibilità che ci aspetteremmo. E quindi chiedevo a Mara, ma anche Elia, ovviamente, se avete voglia di aiutarci un po' a spacchettare questo concetto di disabilità e anche di malattie croniche, a capire che cosa c'è dentro questa parola, che credo sia anche uno dei motivi, no? La grande varietà di condizioni che rende poi così magari difficile fare comunità, come invece sta un po' facendo il progetto Chronic Queers. Sì, beh, su questo, come dire, si potrebbero fare 30 puntate e ancora non raggiungeremo un accordo, perché ci Ma sono. magari le faremo. Infatti, Ah, attenta. benissimo. Allora preparatevi, allora io do solo proprio così l'input iniziale. No, nel senso che ci sono fior fior di discussioni accademiche e non solo, che cercano, no, di definire bene quali sono le differenze, che cos'è che distingue una disabilità da una malattia cronica e quali sono i punti di contatto. E diciamo che si tratta un po' di adottare una visione come dire, che mette insieme i punti di contatto senza azzerare le differenze. Questa è un po' la visione che ho cercato di adottare nel mio progetto e che sia nella ricerca accademica sia poi nella parte divulgativa. Cioè, noi siamo abituate a pensare alla disabilità come a qualcosa di estremamente legato alla visibilità. E tra l'altro oggi, che è il 26 aprile, è il giorno della visibilità lesbica, e quindi, insomma, mi piace anche mettere direttamente in connessione queste due cose, perché in realtà il concetto di visibilità noi nella comunità LGBTQ+ lo conosciamo bene, sappiamo che è un concetto estremamente, come dire, utilizzato, spesso sovraccaricato. È importante essere visibili per essere riconoscibili, ma è anche un privilegio. Non tutte possono avere il privilegio, no, di essere visibili, senza rischi, senza pericoli per la propria incolumità. E questa stessa cosa succede sia con le disabilità sia con le malattie croniche. Cioè, ci sono degli aspetti, dei sintomi, degli aspetti corporei, neurologici, psicologici, che possono essere visibili oppure no, e che comunque scappano, diciamo, da quella idea stereotipica che abbiamo delle disabilità e delle malattie croniche. Ora è ovvio che ci sono delle differenze molto grandi nei vissuti tra disabilità e malattie croniche, ci sono anche molte differenze interne tra malattie croniche diverse. Cioè, se parliamo di malattie reumatiche, di malattie per esempio cardiache, di malattie renali e via dicendo, di diabete, ci sono moltissime sfaccettature e moltissime gradazioni. Quindi quello che secondo me è importante è rendersi conto che sia la malattia cronica che la disabilità sono definite sempre rispetto a una normalità corporale, cioè si dà per scontato che ci sia un corpo abile, che sia il corpo normale, E quando il corpo normale ha qualcosa che non funziona come dovrebbe, allora è identificato come corpo malato o corpo disabile. A seconda di quello, di ciò che non funziona, viene classificato come disabile o malato. Ed è proprio contro questo concetto di normalità che secondo me si possono creare delle alleanze. Nel senso, cioè, secondo me, non solo secondo me, ma secondo, insomma, un intero movimento di alleanze transfemministe del movimento disabile e via dicendo. Perché alla fine, come dire, la questione è che sia le persone con malattia cronica, sia le persone con disabilità sono oppresse dallo stesso sistema di oppressione, che è l'abilismo. E quindi per chi viene, insomma, per chi conosce un po', diciamo, le radici del sessismo, le radici del razzismo, i metodi di funzionamento, no? Come funziona l'omofobia, come funziona la transfobia, riconosci immediatamente che l'abilismo è proprio papa e ciccia con queste linee di oppressione. E si interseca con tutto questo. E quindi secondo me è importantissimo riuscire a vedere questi punti di contatto, perché è da lì che poi costruiamo delle alleanze politiche. Quindi è anche da lì che poi possiamo dire: ok, come movimento LGBTQ, che tra l'altro, apro una parentesi, lo stesso movimento LGBTQ+ è un esempio di mettere insieme tante differenze senza azzerare le differenze, poi magari scannandosi sul significato delle differenze, le uguaglianze, eccetera, però, come dire, sotto il cappello LGBTQ+ ci stanno tantissime cose. In maniera simile possiamo immaginare che malattie croniche e disabilità stiano sotto un cappello simile, e in maniera simile possiamo pensare a delle alleanze per cui, secondo me, se il movimento LGBTQ+ si lotta contro una certa forma di normalizzazione corporale, di normalizzazione dei corpi, non può non lottare anche contro l'abilismo, cioè è un controsenso, è un ignorare una cosa che è evidentissima, secondo me. Quindi questo è un po' il passaggio. Non so se Elia vuoi aggiungere qualcosa rispetto magari alle rappresentazioni anche. Sì, una delle cose che secondo me ho trovato più difficile in generale e che abbiamo trovato anche nel tentativo di tradurre in maniera che ci soddisfasse, come dire, la percezione della malattia cronica o l'idea della malattia cronica, la rappresentazione della malattia cronica in qualcosa di visibile e tangibile, è sempre stato uno dei nostri, cioè, e personalmente uno dei miei grossi crucci, perché, come dire, è tutta la vita che vivo, cioè io ho una disabilità invisibile, ho una malattia cronica che non si traduce in degli aspetti visibili, e che in determinate situazioni, e questo è condiviso da moltissime persone che hanno malattie croniche e disabilità invisibili, è necessario quasi tentare di visibilizzare per poter attraversare gli spazi in maniera più tutelante. Cioè, per esempio, voglio dire, per esempio, all'inizio dell'inasprimento della mia malattia cronica, ho deciso di cominciare a usare il bastone, nonostante fosse anche in un certo senso controproducente per la mia situazione, nel senso per le mie paresi che avevo, ma perché visivamente mi aiutava a veicolare un messaggio che mi permetteva poi di non dover stare tutto il tempo, come a veramente tantissime di noi succede, a giustificarmi. Cioè, questa cosa dell'invisibilità è veramente incredibile, perché non solo ci dobbiamo giustificare con le persone attorno a noi, ma ci dobbiamo giustificare anche con il personale medico-sanitario, con le assistenti e gli assistenti sociali, con gli assistenti e gli assistenti domiciliari. Cioè, è una continua. Cioè, si traduce veramente tante volte in una performance. ovviamente, cioè, nel senso, prendete con le pinze quello che sto dicendo, non che sto dicendo che rappresentiamo una malattia cronica che non esiste, sto dicendo che dobbiamo tradurre in, dobbiamo visibilizzare una situazione che altrimenti non viene compresa. Cioè, secondo me, un esempio lampante è, per esempio, sono tutte quelle patologie che hanno si verificano in un momento specifico, come per esempio l'epilessia. L'epilessia è estremamente debilitante, estremamente, soprattutto chi ha crisi quotidiane, eppure cioè, fuori dal momento della crisi la persona che ce l'ha sembra appunto che non abbia niente. Io quando attraverso gli spazi devo crearmi, cioè ho imparato a crearmi una rete di persone che sanno dove mi sto recando, sanno che nel momento in cui arrivo mi tengono d'occhio, ho imparato ad indossare un braccialetto che, come dire, che testimonia appunto le patologie di cui soffro. E questo perché nel momento in cui il problema delle malattie e disabilità invisibili è che nel momento in cui non la vedi, spesso per gli altri e le altre tale patologia non esiste. Sì, è quello che succede anche un po' quando, insomma, moltissime persone che si identificano come donne o che sono state socializzate come donne e che nell'ambiente medico vengono, insomma, sono oggetto di discredito, no? Dicono che hanno dolore, hanno dei sintomi dolorosi, ma spessissimo poi, insomma, non una di meno, poco tempo fa ho organizzato un incontro sulla vulvodinia e sull'endometriosi, che è un esempio lampantissimo di questa cosa, di come il dolore, no, nelle donne sia considerato inesistente o frutto di una fantasia, proprio perché se non si vede, per gli altri non esiste. Sì, e tutto questo in realtà volevo arrivare a un'altra cosa, cioè quello che volevo dire con tutto questo incipit era semplicemente che è veramente difficile per me riuscire a tradurre in visivo, a rappresentare visivamente la malattia cronica o la disabilità senza cadere nelle rappresentazioni stereotipiche della malattia cronica e della disabilità. E soprattutto tradurre in visivo una cosa che è invisibile è sempre stato un cruccio, insomma, per me. E ci sono, cioè, in certi momenti, secondo me, sono riuscito a cogliere quella sensazione, ma ancora è un processo lungo. Per esempio, c'è questa serie lunghissima che terrorizza Mara, dove rappresento questa serie di ritratti di persone emicraniche, dove l'emicrania è rappresentata da un ragno, e quindi posiziono il ragno l'emicrania con aura in particolare, posiziono il ragno e la sua tela nelle, come dire, a coprire la faccia nei punti che visivamente la persona con emicrania con aura non vede, perché come dire, quello che succede è che scompare una parte di campo visivo, creandosi una sorta di ragnatela luminosa estremamente luminosissima, insomma, fastidiosa. E quindi, cioè, questo lavoro qui secondo me è molto interessante in generale, soprattutto per noi persone con malattia cronica, trovare anche delle forme per rappresentare e comunicare cosa viviamo, sia singolarmente che collettivamente, perché, cioè, narrarci è il primo passo per riuscire a come dire, far comprendere sì, agli altri e alle altre cosa stiamo vivendo, che cosa attraversiamo. E secondo me, come dire, per esempio con tutta una serie di altre persone che si trovano a vivere altri tipi di discriminazioni, è molto più semplice comunicare e far capire cosa attraversiamo, perché cioè, questo tipo di intersezione tocca cioè aspetti comunicare o a non tanto a comunicare ma a restituire, no? Verbalmente o visivamente. Grazie mille Elio e Mara, e grazie mille anche per aver condiviso le vostre esperienze che ci raccontano molto di cosa significa vivere con appunto quelle che vengono chiamate disabilità invisibili, e magari proprio a partire anche dalle gerarchie, no? Che certi concetti di disabilità, certi stereotipi di disabilità creano, possiamo anche pensare proprio come invece un'idea non gerarchizzante, non simmetrica di disabilità possa ridisegnare anche nuove forme di cura. Ci possiamo immaginare nuove forme di cura, di prendersi cura dei corpi proprio a partire appunto da dei modelli che non siano quelli gerarchici, maternalisti, paternalisti o pietisti che tante volte vediamo riproposti nei confronti soprattutto delle persone con disabilità. Sì, forse faccio un commento rapido su questo perché mi sa che abbiamo chiacchierato abbastanza, che poi noi, cioè, io mi entusiasmo, parlo, Elia si entusiasma, parlo. Mara, parlo, ricordo che prima hai detto ci saranno altre 20 puntate. No, su questa questione della cura è molto molto importante, perché anche proprio l'idea della cura, soprattutto quando è relazionata all'idea di disabilità, di malattia, ha appunto quello che tu dicevi, questa idea gerarchizzata per cui c'è chi ha una malattia o ha una disabilità è un oggetto di cura, non è un soggetto di scelta, no? Non è un soggetto che sceglie, che si posiziona, che si autodetermina, è un oggetto su cui vengono fatte delle scelte, per cui vengono fatte delle scelte. E invece, insomma, il movimento soprattutto delle persone con disabilità ha evidenziato, insomma, delle cose molto importanti, il concetto di interdipendenza, il concetto di, no, che siamo tutte e tutti e tutto interdipendenti, dipendenti sia oggetti di cura che soggetti di scelta, sempre e comunque, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di malattia. Questo è stato un aspetto molto bello che è emerso anche nella ricerca, di come tante persone sì, fossero oggetto di cura perché magari avevano bisogno, no, di essere aiutate, accompagnate in alcune cose del quotidiano, però poi si prendono cura magari del partner, della partner, dei propri genitori, dei propri amici in altri modi. Esistono tanti tipi di cura, no? La cura economica, la cura emotiva, la cura fisica, concreta, e quindi credo che, insomma, anche ripensare la cura proprio a partire dal fare a pezzi queste gerarchie, riposizionare il tutto, su questo abbiamo tantissimo da imparare, credo, proprio dai saperi incorporati prodotti dalle persone con disabilità e malattia. Senza dubbio. Forse su questa cosa possiamo avviarci a dirci ciao, cosa ne dite? Oddio, che sofferenza! Sì, però io sono fiduciosa che faremo molte altre puntate, perché abbiamo detto che, insomma, abbiamo voglia di andare avanti a parlarne, giusto? Volentieri, altre 20-30. Altre 20-30. Comunque, nel caso Codici volesse anche assumerci per fare dei podcast. tutto. Prima di fare appunto qualche danno in diretta e rovinarci la reputazione. Va bene, allora io direi che possiamo avviarci alle conclusioni, e Ambrosia ringrazia tantissimo Chronic Queers di questa discussione, confronto, trama intrecciata che speriamo vada avanti. E Chronic Queers ringrazia Ambrosia. Perché, insomma, è stato molto bello e Davvero, grazie. Grazie a Non Una di Meno, Non Una di Meno Milano e alla Radio Lotto tutto l'anno. Ci lasciamo con un pezzo e a presto. A presto, A grazie presto, ciao, mille. grazie. Ciao, Ciao, ciao. grazie. I don't think about waiting.